Unità internazionale sotto l'egida dell'ONU. Dibattito acceso in Italia sull'opportunità di un intervento. Salvini, il premier, parla di guerra a vanvera. Prosegue intanto l'evacuazione degli italiani. I due attacchi a Copenaghen, due gli arresti dopo la morte dell'attentatore. Da Parigi il primo ministro francese Valls lancia un appello all'unità per combattere l'islamofascismo, invitando tutti i paesi della regione a mobilitarsi militarmente e finanziariamente, compresi Qatar e Turchia. 9 indagati per omicidio colposo per la morte della piccola Nicole in Sicilia. Sono 5 medici che hanno operato fra la clinica dove la bambina è nata e il trasferimento in ambulanza. 2 persone del 118 e altre 2 di altrettante unità di terapia intensiva neonatale. Nel pomeriggio il governo incontrerà i sindacati per illustrare loro la buona scuola che approderà in Consiglio dei Ministri a fine mese. Fra le novità l'assunzione dei 140.000 precari, assunzione che non migliorerà la nostra scuola, secondo uno studio della Fondazione Agnelli. Ne parleremo con il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Calcio. Roma pari col Parma, ma la Juventus non riesce a chiudere il campionato. Bene l'Inter a Bergamo, Milan fra i fischi di San Siro. Benvenuti dunque ad Effetto Giorno. Un saluto da Maria Piera Ceci, ovviamente non da Simone Spezia come avete sentito nella sigla. Libia in primo piano, cresce la preoccupazione a livello internazionale, in particolare in Italia, per quanto sta accadendo in un paese che si trova, pensate, a 500 chilometri di distanza circa dalle coste siciliane. Il mondo politico è diviso sull'ipotesi di un intervento militare. Renzi insiste sul coinvolgimento dell'ONU e non è il solo. Intanto stamattina nuovi bombardamenti egiziani sulla Libia, mentre gli italiani stanno lasciando il paese. La cronaca di questa mattinata delle ultime ore con Anna Marino. Sì, Piera, continueranno i raid aerei egiziani che hanno già colpito obiettivi dell'ISIS in Libia in risposta all'uccisione dei 21 cristiani copti mostrata ieri in un video diffuso in rete. Il comandante dell'aviazione libica ha infatti annunciato che nel paese altri raid saranno compiuti oggi e domani in coordinamento con l'Egitto perché stiamo, dice, combattendo un'unica guerra. E secondo l'esercito egiziano sono stati uccisi finora almeno 50 jihadisti negli 8 raid aerei a Derna, città dell'est della Libia dove l'ISIS ha creato un califfato, e a Bengasi e Sirte, dove sono stati colpiti accampamenti, campi di addestramento e depositi di armi dell'ISIS. L'Egitto e la Francia chiedono con urgenza un vertice del Consiglio ONU, auspicando una reazione internazionale, mentre il presidente egiziano Al-Sisi ha proclamato 7 giorni di lutto. La Chiesa copta, infatti, rappresenta il 10% della popolazione egiziana. Fajir Libia, la coalizione di milizie filo-islamiche al potere a Tripoli, ha lanciato un appello a manifestare contro i raid e ha chiesto agli egiziani di lasciare la Libia entro 48 ore. Per evitare ritorsioni. E c'è alta tensione anche in Italia. Dopo le minacce, ambasciata chiusa e per gli italiani rimpatriati giunti nella notte in Sicilia, un centinaio di persone, tra cui anche l'ambasciatore a Tripoli, disposto il trasferimento a Roma con un volo dell'aeronautica militare dalla base militare di Sigonella. Per ora è tutto. Grazie ad Anna Marino. Questa dunque è la cronaca delle ultime ore, mentre, lo dicevamo, il mondo politico dibatte sull'opportunità di un intervento militare. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno Piera, è così, ipotesi di intervento militare presente più che mai tra le opzioni politiche per l'emergenza libica. Da Palazzo Chigi però, dopo la forte accelerazione del fine settimana, vi è un momento di riflessione, si cerca anzi di riportare un eventuale intervento sotto il più ampio cappello degli organismi internazionali. Priorità dunque agli sforzi diplomatici per il premier Renzi, che stamani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente egiziano Al-Sisi. Sempre dal governo però Alfano invita a non perdere tempo, il ministro guarda ad una missione ONU da varare in tempi brevi. L'avanzata del califfato in Libia, dice Alfano, accentua tutti i profili di rischio. Dal Partito Democratico la parlamentare Bonafè spiega si deve intervenire sempre con la copertura ONU ma con la forza. Diviso il fronte delle opposizioni per un'azione militare Forza Italia, con Berlusconi che spiega un intervento di forze internazionali, sebbene ultima risorsa, deve essere oggi un'opzione da prendere in seria considerazione. No ad un intervento militare invece dal Movimento 5 Stelle, l'uso delle armi, dicono Di Battista e Sibilia, peggiorerà la situazione. Salvini, Lega, invita a non ripetere gli errori del 2011. Il governo parla a vanvera, attacca il leader del Carroccio. Prima di qualsiasi intervento bisogna capire che cosa fare, trovando accordi sul territorio e fermando gli sbarchi. Infine, riflessione sulle accuse jihadiste all'Italia di avere un governo crociato da parte di Monsignor Martinelli, che a Radio Vaticana spiega forse è mancato un certo dialogo con il paese e con l'Islam in particolare. È tutto, linea allo studio. E grazie anche al nostro Vincenzo Miglietta. l'intervento dell'Italia non è auspicabile, ne è convinto Mansour Tantush, si tratta di un uomo libico, presidente dell'Unione Islamica in Italia, intervenuto a Mix24 questa mattina al microfono di Giovanni Minoli. Perché sarebbe per l'Italia peggiore quindi la soluzione militare? Eh? Assolutamente. E perché? Perché l'Italia è vista come un interlocutore che risolva la questione dal Libia da tutte le parti. Intervenendo militarmente si peggiorano le cose. Cioè la divisione tra Tripoli e Bengasi, invece che ricomporsi, verrebbe definitivamente, come dire, sanzionata. Esattamente. Perciò l'Italia ha un ruolo molto importante in questo momento di agire politicamente, cioè tutta la sua forza, tutta la sua politica estera che questo periodo non ha fatto è l'occasione per mettersi in gioco veramente per risolvere la questione Libia. L'ISIS che avanza in un'Africa così vicina all'Italia, un radicalismo islamico che però colpisce anche nel cuore dell'Europa. Stamattina due nuovi arresti per gli attacchi a Copenaghen. Era nato e cresciuto in Danimarca Omar Abdel Hamid El Hussein, il giovane di origine araba ritenuto il responsabile del doppio attacco di Copenaghen. La polizia danese stamattina ha confermato l'arresto di due persone che lo avrebbero aiutato nella sua fuga prima dello scontro a fuoco nel quale il 22enne è stato ucciso dai reparti speciali. Secondo gli investigatori, nei due attacchi di sabato, prima contro un centro culturale dove si svolgeva un dibattito sulla strage di Charlie Hebdo e poi contro una sinagoga, il giovane avrebbe agito da solo, uccidendo due civili, un regista e il custode della sinagoga, e ferendo cinque agenti. L'ipotesi più credibile al momento resta quella del lupo solitario. In passato Omar Abdel era stato arrestato più volte, ma mai per motivi legati al terrorismo. Per gli inquirenti potrebbe aver deciso di imitare gli attentati di Parigi, forse spinto dalla propaganda dello Stato Islamico, anche se per ora non sarebbero emerse prove di suoi legami con gruppi jihadisti o viaggi in teatri di guerra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla figura del giovane autore degli attacchi di Copenaghen sentiamo l'inchiesta di Daniele Biacchessi. La nuova ondata di terrorismo fai da te che si richiama all'ISIS mette in subbuglio i servizi di intelligence europei e americani. Perché a Copenaghen Omar Abdel Hamid El Hussein, l'autore del doppio attacco di sabato, non faceva parte in modo organico di un'organizzazione, ma ha agito da solo come fosse una cellula in sonno, che al suo risveglio ha provocato la morte di due persone e il ferimento di cinque agenti. È il terrorista della porta accanto. Il killer di Copenaghen viveva nel quartiere di Norebro, nella periferia della capitale danese. Case basse, mattoni, al massimo cinque piani, oltre 100 palazzine dove vivono in gran parte immigrati. Per tutti Norebro è un ghetto e in quel non luogo Omar dettava legge perché era il leader di una delle molte bande locali del quartiere. L'ultima azione, prima di essere ucciso dalla polizia danese davanti alla sua abitazione, Omar l'aveva indirizzata contro un ragazzo di 18 anni, accoltellato in quanto ritenuto colpevole di essere un infedele, un miscredente. Per questo fatto Omar è entrato in prigione. Poi sabato scorso il terrorista è uscito dalla porta accanto e si è travestito da killer. È entrato sparando al caffè Krudonten. Ha ucciso il regista Finn Norgard, anche se il suo vero obiettivo era il disegnatore svedese Lars Vilks, autore di numerose vignette su Maometto. Non contento, Omar ha attaccato la sinagoga uccidendo il guardiano. Quanti Omar sono in circolazione, si chiedono oggi le polizie di mezzo mondo. Quali possono essere i sistemi per individuarli? Ciò che sconcerta è che Omar, la polizia danese lo conosceva assai bene, ma non si immaginava che dietro quella figura di ragazzo spavaldo e violento si potesse celare un seguace dell'ISIS. Il timore è che sia veramente impossibile prevenire azioni come quelle di Copenaghen e che il rischio sia alto. Il governo ucraino e i ribelli filorussi si sono accusati reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco nell'est del paese. Le truppe ucraine hanno subito 112 attacchi nelle ultime 24 ore. L'accusa arriva dal ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin in visita a Sofia. A loro volta anche separatisti filorussi hanno puntato il dito contro violazioni della tregua da parte delle forze ucraine, in particolare contro alcune località sotto il controllo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Arkady Bakin e Anatoly Antonov, rispettivamente primo vice ministro e vice ministro della difesa del governo di Mosca e il vice capo di stato maggiore russo Andrei Kartapavol, sono nella lista di 19 persone e 9 entità che da oggi allungano la lista nera dei sanzionati europei con il congelamento dei beni e il divieto di viaggio. Ed ora parliamo di scuola. Fra poco dovremmo avere l'ospite, il sottosegretario all'istruzione, scuola, università e ricerca, Davide Faraone. Prima vi facciamo sentire però la voce dei sindacati, perché stasera alle 18 ci sarà l'incontro con i sindacati. Il governo illustrerà i contenuti del famoso documento della buona scuola lanciato in settembre, che domenica verrà presentato ufficialmente in vista dell'approdo al Consiglio dei Ministri del 27. Queste le richieste dei sindacati nella voce di Massimo Di Menna della UIL Scuola. C'è un decreto legge che deve affrontare e definire come avvengono le nuove assunzioni a partire dal 1 settembre 2015. Si tratta i famosi 149.000 assunzioni. Ci sono anche qui modalità diverse, vanno esaurite le graduatorie ad esaurimento, ci sono dei precari che invece hanno l'anzianità di servizio che è stata stabilita anche dalla Corte Europea come fondamentale per avere poi un contratto a tempo indeterminato. Ci sono i posti vacanti, hanno acquisito l'abilitazione con i vari tirocini e ovviamente anche loro hanno un'aspettativa di immissione in ruolo, quindi si tratta di capire quale sarà la scelta che verrà fatta. La seconda questione riguarda la carriera degli insegnanti e gli aspetti retributivi, cosiddetto merito. Il documento del governo, sia il ministro che il premier hanno più volte rappresentato che non esiste più quella proposta, e quindi dovremo andare ad approfondire come il governo intende procedere nella retribuzione di tutto il personale, degli insegnanti in modo particolare. Buongiorno a Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ha sentito Di Menna? Ho sentito. Perché stasera c'è l'incontro con i sindacati, illustrerete la buona scuola, insomma ci sono le richieste, legittime peraltro, insomma, dei sindacati che ascolteranno, soprattutto sono molto contenti di questa convocazione perché vogliono chiarezza, chiedono chiarezza e poi ribattono in particolare su due punti molto caldi, precariato e merito. Cominciamo da precariato, chi è dentro, chi è fuori. Nei giorni scorsi lei a un certo punto ha detto anche abbiate fede, insomma ci saranno correzioni, ci può anticipare allora chi sarà dentro, chi sarà fuori? Ma intanto io cambierei l'ordine dei fattori che un po' i sindacati spesso ci impongono. Noi non stiamo facendo le assunzioni o stabilizzando i precari perché dobbiamo semplicemente assumere degli insegnanti che da anni hanno maturato comunque il diritto all'insegnamento. Noi stiamo partendo dall'esigenza della scuola. Stiamo partendo dall'esigenza della scuola nel avere un organico che interrompa il fenomeno anomalo delle supplenze. Stiamo andando incontro alle esigenze della scuola anche sull'aspetto che riguarda il poter fare una didattica alternativa rispetto a quella tradizionale delle ore di lezione che si svolgono in classe, di tipo lezioni tipo frontale. Quindi partiamo da queste esigenze e partendo da queste esigenze abbiamo bisogno di insegnanti che svolgano queste funzioni a scuola. Lei però non mi sta rispondendo, chi è che sarà dentro i 140.000 precari che da settembre sarà in classe? Sto rispondendo abbondantemente, nel senso che noi cuciremo addosso il vestito delle assunzioni rispetto alle esigenze della scuola, per cui questa idea per cui bisogna mettere in campo una serie di azioni di competizione fra le varie graduatorie, le varie categorie degli insegnanti precari è una fattispecie che non ci riguarda e non ci interessa. Va bene, non me lo vuole dire e ne avrà pure ragione. Le faccio però un'altra domanda, Faraone. Allora, del resto fa il suo lavoro. Stamattina sul Corriere della Sera l'avrà visto lo studio della Fondazione Agnelli. Non è poi così tanto vero che questa fornata di precari, secondo la Fondazione Agnelli, farà bene alla nostra scuola, perché arriveranno in classe intanto degli insegnanti non più giovanissimi, questo insomma si parla tanto, no, della nostra classe insegnante non giovanissima e non gioverà, e poi anche le classi di insegnamento non sono quelle necessarie, per esempio nelle materie scientifiche e matematica non ci saranno comunque abbastanza insegnanti, per non parlare poi della distribuzione geografica. geografica. Molti saranno del sud. Gli insegnanti di questa infornata di 140.000 precari che verranno immessi in ruolo, in realtà gli insegnanti servono al nord. E quindi, insomma, quello che diceva lei, che soprattutto cercherete di cucire addosso alla scuola, alle esigenze della nuova scuola, le nuove assunzioni, secondo la Fondazione Agnelli non è mica tanto così. Ma io inviterei la Fondazione Agnelli, inviterei i sindacati, inviterei gli insegnanti precari, inviterei gli insegnanti o tutti coloro che sono, diciamo, che hanno a cuore il futuro della scuola, di aspettare il decreto e vedere se effettivamente queste che sono le criticità che la Fondazione Agnelli sostanzialmente evidenzia, che sono criticità possibili, che noi non escludiamo, ma proprio per evitare quello che la Fondazione Agnelli sta sottolineando, ha sottolineato con il suo studio, noi metteremo in campo un decreto che eliminerà questo problema e farà sì che si costruisca un'esigenza, che si parta dall'esigenza per dare una risposta. Non cioè, siamo, insomma, matti. Siete pronti al miracolo? Perché, insomma, questi... No, ma non si tratta di miracolo. Purtroppo in questi anni sono state costruite tante graduatorie, create tante aspettative e soprattutto non si è utilizzato lo strumento del concorso, che sarebbe lo strumento legittimo e più appropriato per fare selezione degli insegnanti in questo paese. Noi stiamo rimettendo ordine a questo caos che negli anni si è concretizzato, per cui siamo fiduciosi che col decreto annulleremo le graduatorie inutili, elimineremo il precariato e creeremo le condizioni affinché vi siano degli insegnanti che dal 2016-2015 faremo questa quota di assunzione e confermiamo i numeri che abbiamo sempre detto. Dal 2016 concorso pubblico. Va bene, e senta, invece sul merito molto brevemente, insomma, le intenzioni all'inizio del governo Renzi erano molto buone, pare che poi questo progetto di inserire comunque in qualche modo un agganciamento dello stipendio al merito piano piano stia sfumando, almeno questo mi darà una risposta chiara. Chi vi informa? Cioè, noi abbiamo dal primo giorno detto che il merito sarà il requisito fondamentale per premiare gli insegnanti, gli istituti e le scuole che fanno bene. Perfetto. Quindi agli insegnanti più bravi andranno stipendi più alti? Brava, dopodiché in più dico che uno degli elementi, che per ora è quello esclusivo, uno degli elementi per premiare, per considerare il merito degli insegnanti, è anche quello dell'anzianità. Oggi è 100% anzianità, col nostro decreto sarà 2/3 merito e una quota a parte che riguarderà anche l'anzianità. Chi li giudicherà? Proporremo la carriera degli insegnanti. Oggi o fai l'insegnante o fai il dirigente scolastico. Noi prevederemo delle figure intermedie, quindi il premio è legato allo stipendio, ma è legato anche al fatto che hai un avanzamento di carriera. In 2 secondi, Faraone, chi li giudicherà, gli insegnanti? Un collegio di insegnanti, dirigenti scolastici, componenti esterni, in più con un ruolo importante degli studenti e dei genitori, con una valutazione di secondo grado. Grazie a Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Nuovi bombardamenti egiziani sulla Libia, una 50 le vittime fra i militanti dell'ISIS. Egitto e Francia invocano l'intervento della comunità internazionale. Dibattito acceso in Italia sull'opportunità di un intervento. I 2 attacchi a Copenaghen, 2 gli arresti dopo la morte dell'attentatore. Da Parigi il primo ministro francese Valls lancia un appello all'unità per combattere l'islamofascismo. La crisi greca, oggi nuovo vertice dell'Eurogruppo, dateci tempo, non denaro, dice il premier Tsipras. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble, mi dispiace per i greci, hanno eletto un governo che si sta comportando in modo piuttosto irresponsabile al momento. 9 indagati per omicidio colposo per la morte della piccola Nicole in Sicilia, 5 medici hanno operato fra la clinica dove la bimba è nata e il trasferimento in ambulanza, 2 persone del 118 e altre 2 di altrettante unità di terapia intensiva neonatale. Le coste italiane si stanno ritirando, a rischio erosione il 42% delle nostre spiagge e allarme degli esperti, ed ancora si corre ai ripari arretrando gli stabilimenti balneari. Ripartiamo parlando della vicenda della piccola Nicole, morta, come ricorderete, nella notte fra l'11 e il 12 febbraio sull'ambulanza che la stava portando nell'unico ospedale disponibile ad accoglierla. Stamattina alla riunione della task force che il ministro Lorenzin ha inviato in Sicilia per chiarire dove il sistema abbia fallito. In diretta Valeria De Rosa. Sì, buongiorno Piero, a te ai nostri ascoltatori. Sono due i filoni d'inchiesta aperta sulla morte della piccola deceduta tra mercoledì e giovedì scorso. Questo è quanto ha ribadito il procuratore di Catania Giovanni Salvi. Uno riguarda proprio il decesso della bambina, per cui sono indagate 9 persone. L'altro verte invece sull'eventuale omissione nella messa a disposizione delle unità di rianimazione neonatale e sulle segnalazioni di insufficienza di quelle funzionanti. Come ricordavi, i destinatari dell'informazione di garanzia sono 5 medici che hanno operato tra la clinica e il trasferimento in ambulanza della piccola, 2 persone del 118 e altre 2 di altrettante unità di terapia intensiva neonatale. È ancora in corso nella sede dei carabinieri del NAS di Catania l'incontro con gli ispettori inviati dal ministro della salute. È presente anche l'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino. I requisiti su cui stanno lavorando gli ispettori sono la stabilizzazione della neonata, i requisiti della clinica dove è avvenuta al mondo, adeguatezza del mezzo di soccorso per il trasferimento, protocolli di comunicazione tra la clinica e il 118 e la gestione dei posti letto nelle unità di terapia intensiva. Ricordiamo tra l'altro che sabato sera un'altra tragedia ha colpito una famiglia siciliana. Un bimbo di 2 anni è morto a Trapani. Si sospetta una meningite non diagnosticata. La procura ha aperto un'inchiesta anche in questo caso. Il bambino era stato ricoverato in mattinata con febbre alta e poi era stato dimesso dai medici dell'ospedale di Trapani dopo la somministrazione di un antipiretico. Poi le condizioni del bambino si erano aggravate fino a che poi il bambino è morto in nottata in ospedale dove era stato ricoverato una seconda volta. Per il momento è tutto. E grazie a Valeria De Rosa. Proprio questa mattina la notizia che il direttore del 118 siciliano ha avuto un malore in Sardegna, ma si è rifiutato di farsi ricoverare sul posto perché non si fida degli ospedali sardi. Poco meno di un mese prima che la Sicilia piangesse per la morte della neonata di Catania sballottata da un ospedale all'altro, è accaduto che per soccorrere il direttore del 118 di Palermo colpito da un malore in Sardegna sia stato fatto arrivare a posto un elicottero proprio dalla Sicilia. L'episodio, come racconta l'Unione Sarda, si è verificato la notte del 15 gennaio scorso, quando poco dopo le 23 alla centrale del 118 sardo è arrivata una chiamata di soccorso per un turista per il quale si temeva un infarto. Un'ambulanza lo ha portato subito all'ospedale di Alghero. Dopo la TAC, la diagnosi è stata quella di aneurisma. Il turista in questione, che si chiama Gaetano Marchese, ha 60 anni ed è il direttore della centrale operativa del 118 di Palermo, rifiuta il ricovero nei centri specializzati di cardiochirurgia di Sassari e Cagliari e chiede invece l'intervento della sua centrale. E così alle 6 del mattino successivo atterra ad Alghero l'elicottero che carica il paziente per trasferirlo nel capoluogo siciliano. Sono vivo per miracolo e sono ancora ricoverato. Ad Alghero per un attacco ho dovuto aspettare più di 3 ore. A quel punto mi sono attivato sull'ISMET di Palermo, ha dichiarato Gaetano Marchese. Non volevo parlarne, sono cose mie private e mi sono ritrovato sul giornale. Il sospetto che non tutti i pazienti sono uguali rimane. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il mare sta divorando pezzi della nostra costa. Purtroppo il problema è da tempo che lo conosciamo, insomma, che ne parliamo anche qui a Radio 24, ma ora ci sono dei numeri che non fanno davvero stare allegri. In diretta Laura Bettini. Laura. Buongiorno. Sì, il rapporto ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, indica che l'Italia continua a perdere spiagge e a rischio c'è soprattutto la costa adriatica. In generale comunque i dati sono impressionanti per tutti. Il 42% delle coste è soggetto a fenomeni di erosione, con spiagge che arretrano anche di decine di metri in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, e purtroppo non c'è l'avanzamento in altri punti della costa, e questo deve essere chiaro, quindi è solo una perdita. I danni sono ovviamente per il turismo, ma anche per i residenti, per le infrastrutture. È chiarissimo nelle Marche, in Abruzzo ad esempio, dove la ferrovia e l'autostrada corrono lungo la costa, e in Abruzzo è già stato necessario spostare più all'interno la ferrovia. Perché accade? Beh, i motivi sono vari, sono però purtroppo principalmente antropici, cioè dovuti all'uomo e alle sue attività. Facciamo qualche esempio: prelievo di sabbia dai fiumi per la costruzione, interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici in montagna o prelievo di materiali da costruzione in montagna, e quindi arrivano meno ciottoli e meno terra nei fiumi, e i fiumi ovviamente non ne portano al mare. pesanti interventi di costruzione sulle coste, quindi abitazioni, porti, strade, stabilimenti. Tutto questo viene protetto da moli, da frangiflutti che alterano le correnti e gli effetti delle maree, come sono sempre state. E poi ci sono i cambiamenti climatici, quindi il riscaldamento globale, dovuto anche questo, sappiamo, a cause antropiche, che porta eventi estremi, ma anche innalzamento del mare. Tutto questo ad Ancona è già stato preso in esame anni fa. Ancona è la prima e al momento l'unica città italiana ad avere un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, altre sono sulla strada come ad esempio Bologna. Si è partiti lì dall'aspetto frane, visto che il 13-14% del territorio è a rischio, ma poi ci si è allargati, si è ampliato lo sguardo al contesto dei cambiamenti climatici più in genere, sia per le frane che per l'erosione appunto delle coste. Quindi è stato fatto un piano, grazie all'Unione, ai fondi dell'Unione Europea, e Marco Cardinaletti ne è stato il project manager. A lui abbiamo chiesto di quella notizia di cui scrivemmo tempo fa, e cioè che alcuni esercizi dell'area costiera anconetana hanno ricevuto, diciamo, una richiesta da parte dell'amministrazione comunale di arretrare. L'abbiamo chiesto com'è andata, cosa sta succedendo. Nel piano di adattamento noi avevamo ipotizzato, anzi in realtà se devo essere sincero non era neanche un'ipotesi, era proprio stato attivato un tavolo di lavoro su queste cose qui, legato alla riqualificazione dell'area di Porto Novo, che è appunto un'area a forte pregio naturalistico inserita all'interno di un parco, quindi altamente protetto. E si era iniziato a pensare di poter, piuttosto che lavorare solo esclusivamente con dei rifacimenti annuali, andare a pensare di poter spostare alcuni stabilimenti che si trovano sulla costa per guadagnare suolo. Questo era un ragionamento che era stato fatto dall'amministrazione, i vari operatori turistici, i ristoratori anche, perché molti di questi stabilimenti comunque sono facilmente arretrabili. Ad oggi però questa cosa qui rimane è un'azione inserita nel piano, sono comunque percorsi che hanno tempi di attuazione non immediati. E grazie a Laura Bettini per averci fatto il punto su questa notizia non bella, appunto, che riguarda le nostre coste. Andiamo invece alla pagina economica. Il Giappone esce dalla recessione tecnica grazie al PIL tornato a crescere dello 0,6% a ottobre-dicembre rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,2% rispetto all'anno prima. L'economia giapponese ritrova così la crescita dopo due trimestri di fila a ribasso. Mi dispiace per i greci, hanno eletto un governo che si sta comportando in modo piuttosto irresponsabile al momento. Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, intervistato da una radio tedesca. La Grecia, ha aggiunto, deve capire che non si può vivere al di sopra dei propri mezzi e continuare a fare proposte su come gli altri dovrebbero pagare ancora di più. Ci serve tempo, non denaro, afferma invece il premier greco Tsipras, che secondo un sondaggio è comunque visto di buon occhio dal 60% dei suoi concittadini. Per il presidente della BCE Draghi non ha senso speculare su una possibile uscita dall'euro. Tutto ciò nel giorno del nuovo Eurogruppo. Si riuniranno questo pomeriggio a Bruxelles i ministri delle finanze della zona euro nel tentativo di trovare un accordo con la Grecia ed evitare un fallimento del paese mediterraneo che da 5 anni è in grave crisi finanziaria ed economica. Nel fine settimana si sono tenute lunghe discussioni tecniche con l'obiettivo di trovare un terreno comune tra il memorandum di aggiustamento negoziato dai creditori internazionali con il precedente governo greco e il programma politico dell'attuale esecutivo guidato da Alexis Tsipras. Quest'ultimo vuole liberarsi del memorandum e chiede ai partner europei maggiori margini di manovra, visto l'imponente debito del paese. I creditori sono d'accordo, ma vogliono garanzie. Molti qui a Bruxelles sono pessimisti sulla possibilità di un'intesa oggi, ma sorprese non sono da escludersi. I commenti negativi della vigilia fanno parte del braccio di ferro negoziale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Nuovi raid egiziani sulla Libia, una cinquantina le vittime fra i militanti dell'ISIS. Egitto e Francia invocano l'intervento della comunità internazionale. Dibattito acceso in Italia sull'opportunità di un intervento. Un centinaio intanto gli italiani evacuati dal paese. I due attacchi a Copenaghen, due gli arresti dopo la morte dell'attentatore. Da Parigi il primo ministro francese Valls lancia un appello all'unità per combattere l'islamofascismo. 9 indagati per omicidio colposo per la morte della piccola Nicole in Sicilia. Sono 5 medici che hanno operato fra la clinica dove la bambina è nata e il trasferimento in ambulanza. 2 persone del 118, altre 2 di altrettante unità di terapia intensiva. Il dirigente scolastico di una scuola in provincia di Udine vieta il velo islamico in classe e teme gesti di intolleranza nei confronti degli studenti musulmani dopo quanto accaduto a Parigi e Copenaghen. E poi il calcio: Roma pari col Parma, ma la Juventus non riesce a chiudere il campionato. Bene l'Inter a Bergamo, Milan tra i fischi di San Siro. E siamo al momento delle borse, borse prudenti in avvio nell'attesa dell'Eurogruppo sulla Grecia. È così, Isabella Tasso? Arca SGR, più valore agli investimenti, vi presenta Borse in diretta. Dicevamo, borse prudenti in avvio questa mattina nell'attesa dell'Eurogruppo di cui parlavamo poco fa anche con Beda Romano sulla Grecia. Isabella Tasso. Sì, le borse hanno variazioni marginali, Parigi è sulla parità, Francoforte cede uno 0,2%, Londra lo 0,1%, Milano poco sopra la parità, fa più 0,2%. Dopo i forti guadagni della settimana scorsa, gli investitori oggi sono appunto cauti in attesa della riunione dei ministri finanziari dell'area euro a Bruxelles sulla situazione greca. La riunione inizierà alle 15. Ecco, poi come sta andando il debutto in borsa di Banzai? Ma il debutto in borsa è stato in negativo, il titolo ha aperto sul prezzo di collocamento, adesso cede intorno al 3%. Sono invece ben intonati sul listino principale la maggior parte delle banche, il Monte dei Paschi in particolare fa un rialzo del 4%, sostenuta dalle crescenti speculazioni attorno a ipotesi di aggregazione. Bene anche le popolari, Banco Popolare più 1,5%, Popolare di Milano più 1,4%, UBI più 1%. Grazie ad Isabella Tasso di Radio Cor. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E abbiamo sentito nella prima parte di Effetto Giorno le notizie sempre più preoccupanti sulla situazione libica, i bombardamenti egiziani, un possibile intervento militare anche dell'Italia, il rientro degli italiani dalla Libia. Ebbene, di tutto questo parliamo questa mattina con Bernard Selvan Curi, direttore di COSMO, Center for Oriental Strategic Monitoring. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo sentito le notizie che arrivano da questo paese poi così vicino all'Italia, come dicevamo, una 50 le vittime fra militanti dell'ISIS per i nuovi bombardamenti egiziani sulla Libia. Egitto e Francia invocano l'intervento della comunità internazionale sotto l'egida dell'ONU. Ecco, quali possibili ipotesi di intervento militare vede nei prossimi giorni? Diciamo innanzitutto che quello che sta accadendo in Libia in termini di intervento militare, specificatamente da parte dell'Egitto, era già presente da diversi mesi nel paese e da parte di alcuni paesi occidentali lo è stato anche negli ultimi mesi sotto una forma indiretta o diciamo tramite un altro tipo di intervento, se possiamo considerare un intervento ad esempio l'addestramento delle forze armate libiche e il sostegno appunto militare. Questo per dire che ciò che è accaduto negli ultimi giorni, l'escalation, era in realtà una questione molto prevedibile ed ha avuto una grave escalation dopo 2 fatti recenti che sono accaduti in Libia: l'attentato a Tripoli al Corinzia e lo sgozzamento degli egiziani. Certo, questi sono stati 2 aspetti che diciamo hanno fatto salire dalle marce più basse fino all'ultima marcia quello che è stato il motore dell'interventismo militare in Libia, che è sostenuto da parte araba in modo molto forte dall'Egitto e da parte occidentale dalla Francia, che non fa altro che portare avanti appunto la sua politica nell'area del Nord Africa, che si era già palesata in modo molto chiaro durante la rivoluzione del 2011 contro Gheddafi. Mm-hmm. Ecco, Alberto Negri questa mattina sul Sole 24 Ore scrive sul sito online del Sole 24 Ore, dice: truppe italiane in Libia, tutti i rischi dell'opzione militare. Naturalmente elenca tutta una serie di problemi che questo creerebbe al nostro paese, perché sull'onda della scia emotiva di quanto sta accadendo, naturalmente sono in molti che ipotizzano la necessità di un intervento, però poi a un certo punto, dice anche Alberto Neghi, potremmo cominciare a vedere le bare dei soldati come è avvenuto in Afghanistan e in Iraq, e allora comincerebbe anche a vacillare questa certezza. E poi lei la vede una formazione a guida, la formazione di una coalizione a guida italiana? Diciamo che fino ad oggi l'Italia ha avuto la possibilità, o meglio, diciamo il blocco occidentale, in particolare gli Stati Uniti, hanno demandato fino ad oggi questa responsabilità ai paesi europei e in primis all'Italia. Questo non significa che il governo italiano non sia riuscito a risolvere la complessità libica, che appunto rappresenta una realtà estremamente complessa. Io ritengo che oggi un intervento militare che sia slegato da qualsiasi azione politica o di dialogo nazionale, come si sta cercando di fare, non soltanto è molto pericoloso, ma rischierebbe di farci ritrovare a pochissimi chilometri dalle coste italiane uno scenario molto più complesso di quello siriano e anche di quello afghano. Le spiego perché. In Libia confluirebbero tutte le formazioni jihadiste che si sono rafforzate sull'onda della nascita dell'ISIS, che provengono da una parte, quella orientale, e cioè dall'Egitto, che confina appunto con la Libia, e confluirebbero tutte le formazioni sempre jihadiste che arrivano da Occidente, se parliamo della Libia, che sono le formazioni attive nel Sahel, nell'area del Sahel, nel Sahara, in Tunisia, in Algeria e in tutta appunto l'Africa subsahariana. Questo farebbe della Libia un vero e proprio inferno per i soldati occidentali che si dovrebbero recare in questa situazione. Forse poteva avere più senso, ma anche come dire, con più chance pensare a un intervento militare diversi mesi fa. Ad oggi la situazione è veramente complessa, i rischi sono estremamente alti per un intervento. Grazie. Grazie a Bernard Selvan Curi, direttore di Cosmo, e salutiamo invece un altro ospite. Si tratta di Aldo Durì, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli. Buongiorno. Buongiorno. E purtroppo si chiama ISIS. Ma infatti ho pensato a un errore mio di stampa, invece si chiama proprio ISIS. No, è la denominazione ufficiale per gli istituti superiori, certo. Gli istituti comprensivi a livello superiore, nel senso che raggruppiamo diverse scuole, licei, istituti tecnici, professionali. Ecco Durì, lei ha preso una decisione importante, quella di vietare il velo in classe. Perché? Non l'ho vietato perché non ho gli strumenti giuridici per farlo. Ho emanato una circolare per scoraggiare e dissuadere all'uso di qualsiasi simbolo di ostentazione che possa ostentare, dichiarare la diversità di credo, confessione, ideologica, politica, eccetera. Ma perché lo fa? L'ho fatto a conclusione di un discorso lungo argomentato sulla recrudescenza delle tensioni razziali che si avvertono nella nostra scuola, che sono strettamente collegate. Ma mi dice cosa sta succedendo nella sua scuola? Cioè ci sono successi degli episodi che l'hanno fatta preoccupare, oppure è un'azione preventiva la sua? No, è una decisione preventiva legata però a degli episodi concreti che non vogliamo si diffondano e prendano piede. Qualcosa deve essere successo, se no altrimenti come mai proprio lei? Certo, cosa è successo? È successo questo, che da quando l'ISIS, i jihadisti islamici stanno facendo tutto quello che sappiamo, è più Parigi, eccetera, quelle che erano state tensioni, insomma, tensioni, insulti, attriti, insomma, abbastanza innocenti tra gli autoctoni, diciamo così, e la numerosa comunità musulmana, si sono caricati di nuovi significati. Sono volate parolacce, sono volati cazzotti, che cosa è volato? Dalle dalle parolacce, venditori di tappeti eccetera, si è passati adesso all'assimilazione islamico, islamico arabo uguale terrorista. E questa radicalizzione un po' dello scontro lei ha paura giustamente. Ci sono stati degli episodi violenti che mi hanno preoccupato, rispetto a cui siamo intervenuti con estrema durezza, ma che non si sono mai verificati. Si sono menati nelle insomma nostre scuole, no? Quindi in appendice a questo discorso in cui richiamavo i valori della tolleranza e del reciproco rispetto e dell'accettazione, no? In nome di una scuola che deve essere uno spazio libero di crescita, maturazione, istruzione e non di competizione, certo, politica, ideologica. Lei ha deciso comunque di accenno anche a questo fenomeno dell'esibizione della diversità, no? Che poteva in qualche modo sottolineare e amplificare quella divisione che non in categorie religiose. Grazie ad Aldo Durì, che appunto ha deciso, comunque ha preso questa decisione anche un po' dura, no? Nella sua scuola di Cervignano del Friuli. Lasciamo per un istante questi argomenti così importanti ma anche davvero molto difficili, perché apriamo la pagina sportiva con Carlo Genta, fra un quarto d'ora tutti convocati, ci rilassiamo un po'. Allora, un assaggino prima di dare la linea a Platero, vediamo. America 24, com'è andato questa giornata? Rilassiamo, vediamo, perché con gli etichetti erano tra parliamo dell'ISIS, direi che... Sì, no, di sicuro, però anche nel calcio italiano l'aria, vabbè, con tutte le proporzioni del caso, non è respirabilissima. Comunque... Quanto al campo, ieri sera la Juventus ha avuto la possibilità praticamente di chiudere il discorso scudetto dopo che la Roma ha pareggiato in casa con il Parma. A proposito, bonifici per i giocatori del Parma non ancora arrivati, e questa è cronaca. Non c'è riuscita, ha pareggiato 2-2 a Cesena, non una bella Juventus, e quindi campionato che rimane aperto pro forma, perché comunque 7 punti rimangono tanti. Nel pomeriggio c'è stata una buona Inter che ha vinto a Bergamo come non lo succedeva da 7 anni, quindi un Inter in crescita. Segno meno invece per il Milan, che ha pareggiato in casa con l'Empoli, però questo quasi non fa più notizia. Quindi questo è ciò che è successo. La Lazio ha vinto a Udine e quindi rimane in corsa per quel terzo posto che adesso è del Napoli, insieme alla Fiorentina, che ha convinto invece sabato sera molto di più con il Sassuolo. Torneremo a parlare naturalmente fra circa un quarto d'ora, se chiudiamo, se no diventerà fra 20 minuti. Grazie mille a Carlo Genta, ci fermiamo un istante con Strada in Diretta. L'appello del premier libico Abdullah Al-Thani: chiedo alle potenze mondiali di sostenere la Libia e intraprendere azioni militari, o la minaccia dell'ISIS si sposterà nei paesi europei, in particolare l'Italia. I due attacchi a Copenaghen, due gli arresti dopo la morte dell'attentatore. Le misure di sicurezza e protezione di sinagoghe, scuole e centri ebraici in Gran Bretagna sono state rafforzate poche ore dopo gli attentati a Copenaghen. 9 indagati per omicidio colposo per la morte della piccola Nicole in Sicilia. Stamattina la riunione della task force che il ministro Lorenzin ha inviato in Sicilia per chiarire dove il sistema abbia fallito. E siamo al calcio: Roma pari col Parma, ma la Juventus non riesce a chiudere il campionato. Bene l'Inter a Bergamo, Milan tre fischi di San Siro. Ed è tutto per Effetto Giorno, un saluto da Maria Piera Ceci.